falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Le copertine delle patinatissime riviste di moda e i servizi al loro interno ci rimandano a un mondo fatto di bellezza, glamour, lusso, un mondo dove le donne e gli uomini sono esseri perfetti, bellissimi, dove non c'è la bruttezza, non c'è la malattia, non c'è la povertà, splende sempre il sole e si passa da sogni che si avverano a feste straordinarie, mentre le preoccupazioni non esistono. E far parte di questo mondo è il sogno di tanti ragazzi, di tante ragazze soprattutto, che vogliono diventare modelle, modelli, e di arrivare al centro di un vortice fatto di abiti, di specialisti in ogni settore della bellezza a tua disposizione, poi foto, feste, auto di lusso, magari anche partner famosi, una carriera del cinema, guadagni stellari, insomma il miraggio di una vita fuori dal comune. La maggior parte delle persone però non sanno, o forse ne preferiscono non sapere, quello che si nasconde sotto a questo mondo, e noi ne abbiamo parlato più volte, insomma, da Terry Bruma a altri attori principali di un mondo che ovviamente è bellissimo fuori ma molto meno puro all'interno. Intanto bisogna essere abili non solo nel proprio lavoro, dove c'è una selezione allucinante, ma anche e soprattutto nelle relazioni. Bisogna sapersi difendere, un mondo dove basta magari un colpo di fortuna per arrivare, ma ci si mette poco a tornare nell'oblio. E il mondo della moda, del fashion di alto livello è costellato di vicende straordinarie, di carriere sfolgoranti, però ci sono anche delle storie come quella che stiamo per raccontarvi. Ho iniziato a lavorare con tante persone, tantissimo lavoro tutto il tempo, in maniera molto veloce. Non mi sono costruita la mia carriera di modella, lo sono diventata e basta. È molto difficile capire la differenza tra quello che è reale e quello che non è reale quando hai un sacco di gente intorno a te. Quella che avete sentito è la voce della nostra protagonista di oggi. È una donna che, come ha detto lei stessa, non si è costruita la sua carriera nel tempo, lo è diventata dall'oggi al domani, si è trasformata in una icona di stile, è stata la musa indiscussa di stilisti come Armani, Versace, Yves Saint Laurent, Chanel, Dior. La nostra protagonista di oggi è Gia Carangi. Il primo consiglio che vi do è andare su YouTube o da qualche parte e vedere che tipo era. Era una delle donne più belle da quando quella costola è stata staccata a Adamo ed è stata fatta la donna. Sarà proprio tra le top 3, 5 nella mia personalissima classifica. È una donna bellissima con una capacità enorme di stare davanti all'obiettivo dei fotografi, però era una donna affetta da un terribile male di vivere. Cercheremo di capire meglio cosa l'ha portata su quella china irreversibile e mortale che è l'eroina. Gia Carangi è stata la prima supermodella della storia, ha preceduto super top come Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christie Brinkley, Carol Alt, Ellie MacPherson, ma è stata anche una delle prime persone famose a fare coming out, cioè che ha dichiarato la sua omosessualità, e anche degli altri primati, ahimè, un po' tristi. Gia Marie Carangi nasce a Filadelfia il 29 gennaio del 60, è la terza di tre figli. Il padre, Joseph Carangi, figlio di immigrati italiani, possiede una tavola calda. La madre, Kathleen Adams, è una donna che avrà un ruolo veramente decisivo e non positivo nella formazione della figlia di Gia. Avrà un ruolo nelle sue scelte professionali, sentimentali e anche nella sua breve vita. Eh sì, perché quando Gia ha solo 11 anni, la madre, stanca di un matrimonio, a detta di lei difficile, con un uomo che lei definisce violento, insomma, decide di abbandonare la famiglia. Non lascia solo il marito, lascia anche i 3 figli al marito. Anni dopo, il fratello maggiore di Gia, Michael, dichiarerà che la madre in realtà si era invaghita di un altro uomo, infatti lo sposa l'anno dopo, insomma, che non c'era, non era una storia di abusi, era una semplice storia nella quale una donna decide di andarsene con un altro uomo, mollando il marito e soprattutto i figli. E questo ovviamente è un esempio classico di infanzia spezzata. Gia soffre di instabilità emotiva, la madre le manca, e questo crescere senza la madre la porta a ricercare attenzione in altre donne, in particolare nelle adolescenti che frequenta, e insomma non bisogna essere dei laureati in psicologia per capire che tutto questo ne modifica le attitudini sessuali, e comincia a rifiutare le avance dei ragazzi maschi, perché tutto il mondo è colpito dalla sua avvenenza, perché è bellissima, è alta 1,75 m, ha un fisico asciutto, vagamente androgino, è muscolosa, è sportiva, è un viso è perfetto. All'inizio della carriera Cindy Crawford verrà soprannominata Baby Gia, come a dire somiglia a Gia Carangi ma non è così carina. Insomma, mentre lei è al liceo e mentre la sua sessualità comincia a esplodere in quella direzione, lei entra a far parte delle ragazze di Bowie, cioè un gruppo di fan ossessionate da David Bowie, innamorate del suo stile ribelle, della sua immagine ambigua, forse attirate anche dalla sua dichiarata bisessualità. È stato un artista e influente per moltissimi, lo sapete anche per me, l'ho detto 1000 volte. Per Gia in questo caso rappresenta veramente tutto, perché è un garante, qualcuno che le consente di dire a se stessa: se lo fa lui, anch'io posso essere una omosessuale senza sentirmi fuori luogo. Il falco e il gabbiano. E Gia Carangi cresce come un'adolescente inquieta che soffre per l'abbandono della madre, vive questo abbandono come una vera e propria carenza e cercherà per tutta la sua vita di conquistare l'amore e il rispetto della madre, e quindi insomma di riflesso di altre donne, e non riuscirà mai a superare questo trauma. Intanto cresce, diventa una ragazza bellissima, in molti la definiscono un maschiaccio per la sua mentalità disinvolta, aperta alla sessualità, lesbica in maniera evidente. Il professor Robert Hilton, consigliere specializzato nelle tossicodipendenze, a cui una delle agenzie di modelli di Gia affida la ragazza nell'ultimo periodo nel disperato tentativo di recuperarla, studia in maniera approfondita la sua sessualità. Già nutriva un tale desiderio verso le donne che non può essere che definito nella sua essenza tipicamente mascolino. Ogni qualvolta coglievo qualcosa di utile durante le sedute riguardanti la sua sessualità, ciò che mi raccontava rassomigliava molto al modo in cui gli uomini parlano delle donne. E a 17 anni lei comincia a posare per alcune fotografie pubblicitarie, però per il momento la sua vita si divide tra la scuola e il suo gruppo di fan di Bowie, che non perdono un solo concerto della star appena passa dalle loro parti, e passano le loro serate nelle discoteche gay di Filadelfia. Proprio in una di queste discoteche lei viene notata dal fotografo Maurice Tannenbaum, un fotografo di grido. Lui le scatta delle foto e le fa arrivare sul tavolo giusto. Wilhelmina Cooper, ex modella famosissima negli anni 50, fondatrice della Wilhelmina Models di New York, che è un'agenzia di modelle leader del settore, che lei ha fondato insieme al marito, il noto produttore Bruce Cooper, insomma la crema di quel settore. Bene, Wilhelmina rimane travolta dalla forza espressiva di quegli scatti eseguiti in fretta. Si rivela già, si intuisce una personalità complessa ma anche uno spessore, insomma viene chiamata immediatamente a New York. È l'inizio di una carriera che non si può neanche definire rapidissima, è una carriera istantanea. Appena compiuto 18 anni firma il contratto con la Wilhelmina Models. Lei è veramente di una bellezza straordinaria e in più è completamente diversa dalle altre ragazze. Non le vengono neanche fatti i casting di prova. Con lei è tutto immediato. I fotografi non hanno neanche bisogno di darle indicazioni. Fa tutto da sola con naturalezza. Ascoltate il ricordo di Harry King, il parrucchiere delle dive, il più famoso dell'epoca, che in quegli anni pettina tutte le modelle più note per i servizi di moda più prestigiosi. I can't remember exactly. Non mi ricordo esattamente dove l'ho incontrata la prima volta, ma mi pare che fosse da Francesco Scavullo, perché me la ricordo distintamente. Stava lì in piedi sul set, i capelli erano in disordine, non era truccata, ma stava lì sul set, sul bordo. Non ho mai visto nessun'altra lavorare come lei. L'unica altra persona che le si avvicinava, e non ridete, era Lauren Hutton. Aveva lo stesso linguaggio del corpo. Io l'ho guardata e mi sono detto: oh mio Dio, questa ragazza è fantastica. Era androgina. Era come un ragazzo senza essere un ragazzo, perché era una ragazza. Era una bravissima attrice, una modella fantastica, davvero fantastica. Really fantastic model. Il primo servizio fotografico importante di Gia Carangi risale a poche settimane dopo il suo arrivo a New York, ottobre del 78. Chris von Wangenheim, un luminare tra i fotografi di moda, la immortala completamente nuda dietro a una rete metallica. Lei fissa l'obiettivo con una tale potenza espressiva da rendere la foto non solamente erotica, molto di più. Lei è nuda non solo nel corpo, ma anche nell'anima. La complessità della sua persona traspare, crea uno spessore difficile da trovare in altri scatti fotografici di quel periodo. E quella foto rappresenta il vero lancio di Gia Carangi nel mondo dorato della moda. E nel giro di poche settimane la ragazza di Filadelfia, che sta ancora andando a scuola, che impazzisce per David Bowie, diventa una modella super pagata, la prima vera top model, soprattutto per quelle che sono le sue caratteristiche, non solo fisiche. Lei è molto diversa dalle altre ragazze, non è femminile, non è leziosa, non sbatte maliziosamente le ciglia davanti all'obiettivo. Lei è un'altra cosa, ha carattere, ha un carattere che la distingue da tutte le altre ragazze. Da subito si inizia a sussurrare il fatto che lei sia diversa. She does her own thing, cioè fa di testa sua. Ascoltate cosa racconta di lei Carol Alt. Mi ricordo che una volta mi era venuta a prendere la macchina della produzione e Gia ci seguiva con la sua piccola auto rossa. Poteva essere una Triumph o una Spitfire o una Spider. Era una due poste decappottabile. Com'è possibile che lei venga con la sua auto, pensai. Ero tentata di chiederle se potevo andare con lei. Guardai Scavullo, ma lui mi disse: non chiederlo nemmeno, non chiederglielo. Perché Gia fa di testa sua. Tutti nell'ambiente lo sapevano fin da subito che Gia faceva le cose di testa sua. Il comportamento di Gia ricorda più l'atteggiamento di un ragazzo indipendente, autonomo. Oggi non ci sarebbe niente di strano, però a quei tempi il fatto che lei sia la sola delle ragazze dell'agenzia che invece di farsi portare dalla macchina della produzione si presenta sul set con la sua Spider rossa fa un certo scalpore. E poi lei comincia a portarsi dietro la sua nuova amante, la truccatrice Sandy Linter, che ha conosciuto proprio in occasione dello shooting di Chris von Wangenheim, quello della rete metallica. Insomma, la scalata al successo di Gia Carangi non sembra trovare ostacoli. Ha la bellezza, l'intelligenza, il giusto livello di trasgressione, è diversa da tutte le altre. Gli ingredienti per diventare un mito ci sono tutti, forse ce ne sono troppi, anche perché a frenare la sua straordinaria corsa, che sembra inarrestabile, interviene un altro elemento, un elemento imprevisto, devastante, è l'eroina. Il falco e il gabbiano. Prima di Cindy Crawford e di Linda Evangelista c'era lei. Prima di Christy Brinkley e di Carol Alt c'era lei. Prima di tutte le altre bellissime top model c'era lei. Gia Carangi, se non l'avete ancora fatto, accettate il mio consiglio, andatevi a guardare che faccia e che espressione aveva questa donna, che è la nostra protagonista di oggi, la prima supermodella, l'indiscussa prima donna della scena internazionale del glamour e del fashion. E tutto questo in un lasso di tempo è incredibilmente breve, 26 anni di vita, 4 di carriera. E lei non è solo la prima supermodella, è anche la prima lesbica dichiarata nel mondo della moda. La sua è una vita che avrebbe potuto essere veramente straordinaria, piena di successo, di ricchezza, e che viene invece spezzata da un male di vivere, da una sofferenza interiore che non conosce guarigione, che la porta in breve all'autodistruzione. Abbiamo visto come la sua carriera inizia quando lei è appena diciottenne, è una diciottenne tormentata per l'abbandono da parte della madre quando lei era piccola, però lei ha delle caratteristiche uniche sia sul piano fisico che su quello caratteriale, insomma diventa la modella più richiesta da tutti i fotografi più famosi, fino al grande Francesco Scavullo, che in quegli anni è famoso non solo come fotografo di moda ma anche come ritrattista. È sua per esempio la foto scattata a Janis Joplin con la sigaretta in mano, quella esposta oggi al Lemon Carter Museum di Fort Worth in Texas. Insomma, Scavullo è una personalità a quel tempo, detta legge nel mondo della moda, e si affeziona tantissimo a lei fin dall'inizio. Nel suo libro Women, uscito nel 1982, scrive così di Gia: non penso mai a lei come a una modella, sebbene sia una delle migliori. Il fatto è che lei non si atteggia da modella, non ti dà quello sguardo hot, cool o grazioso. Lei spara scintille, non pose. È spontanea, intraprendente e piena di inventiva. All'inizio mi faceva impazzire questa cosa perché non riuscivo a starle dietro. Ma poi elaborai una tecnica particolare che mi consentiva di mettere a fuoco la macchina fotografica più rapidamente e catturare quello che lei faceva. E Gia conquista tutti, tutti la vogliono. Le grandi case fanno a gara per averla: Dior, Chanel, Oscar de la Renta, ma anche Armani, Versace, Saint Laurent. Tutti nel mondo della moda la vogliono nonostante la sua totale inaffidabilità, anzi forse proprio a causa di quel suo essere così ambigua, sfuggente, imprevedibile. Però è talmente brava e bella che le foto poi si fanno in un attimo, sempre che lei si presenti sul set, perché ormai le può succedere di disdire un'intera settimana di lavoro se non è contenta di un taglio di capelli, oppure può arrivare e farsi truccare per 2 ore e mezza, poi sparire a comprare le sigarette e non tornare più. Insomma, le viene perdonato tutto, anche il fatto di non nascondere la sua omosessualità, in anni in cui di queste cose nessuno parla apertamente. Lei se ne frega, arriva addirittura a portarsi sul set la sua conquista del momento, Sandy Linter. Era semplicemente adorabile e ovviamente mi innamorai di lei. Non potevi non innamorarti una volta che avevi scoperto tutti i lati del suo carattere, non solo quello più evidente, quello più duro. Naturalmente Sandy Linter non è l'unica fidanzata di Gia. Lei ha alle spalle già almeno 2 storie molto travagliate, una con una sua amica d'infanzia e l'altra con una studentessa di Filadelfia. Poi arriva a New York e viene travolta dal successo e non ha alle spalle, come dire, una rete di sicurezza data dalla famiglia d'origine. Anzi, è tutto indebolito dal suo rapporto conflittuale con la madre. E così lei non fa che passare da una relazione all'altra, perché ha una continua e disperata ricerca di attenzioni, vuole tentare di colmare quel vuoto fatto di solitudine psicologica. E insomma, lei ha tutte le caratteristiche per cascarci, per diventare preda prima della cocaina che circola abbondantemente nei set fotografici e alle feste, e poi dalla cocaina si passa a un giro che diventa pericolosissimo, quello terribile dell'eroina. Lei frequenta il famoso Studio 54, la più stravagante discoteca di New York, quella aperta nel 77, e ci va per provocare, per suscitare scalpore. Le stravaganze di quelle serate vengono regolarmente riportate dai giornali. Il giorno dopo lì ci vanno Bianca Jagger, Liz Taylor, Paloma Picasso, Truman Capote, Andy Warhol, Michael Jackson, Diana Ross, Madonna. E la particolarità dello Studio 54 è costituita da una scenografia che rappresenta una falce di luna imboccata da un cucchiaio pieno di cocaina, e al culmine di ogni serata l'uomo della luna cala tra il pubblico offrendo dosi dal suo cucchiaio d'argento, almeno così si racconta, ma è probabile che queste cose accadessero veramente. E lei qui inizia a fare un uso costante di cocaina, e poi però questo non le basta più, forse nel momento dell'apice bisogna pur rilassarsi, e quindi arriva anche l'eroina. Lei è ricca, guadagna moltissimo, non ha problemi, e poi c'è sempre chi la rifornisce appena ne ha voglia. E poi il suo universo comincia a sgretolarsi ulteriormente, perché il primo marzo dell'80 muore di un carcinoma al polmone Wilhelmina Cooper. Ricordate, era la gente che l'aveva lanciata, che aveva creduto in lei. Lei si era attaccata a Wilhelmina morbosamente, forse perché sperava di finalmente trovare una figura materna, e insomma si trova nuovamente abbandonata, sola. E quando una così è sola, il rifugio diventa inevitabilmente quello, l'eroina. E la dipendenza di Gia comincia a influenzare negativamente il suo lavoro, violenti scatti di ira, se ne va improvvisamente per procurarsi la droga, si addormenta davanti alla macchina fotografica. E insomma, non è più quella di prima, e il suo fisico comincia a risentirne, le occhiaie sono più profonde, magari si possono coprire col trucco, però è più difficile togliere con il trucco, con i primi fotoritocchi, le protuberanze rosse nelle pieghe delle braccia, insomma i buchi dell'eroina. Alcuni degli ultimi scatti dell'82 mostrano sulle sue braccia dei segni inequivocabili di un uso assiduo di aghi che i ritocchi non sono riusciti a coprire. La sua inaffidabilità non è più solo quella della ragazza stravagante che se ne infischia delle regole, e diventa l'inaffidabilità di una tossicodipendente. E le proposte cominciano a scarseggiare, i contratti anche, i clienti, i fotografi cominciano a preferirle altre ragazze, anche gli amici le voltano le spalle perché si spaventano all'idea di essere associati a lei. E cominciano i tentativi drammatici di uscire dalla droga, dall'eroina. Torna a Filadelfia, va dalla madre, nel febbraio dell'81 viene convinta a disintossicarsi in un centro specializzato, e poi lei dentro a questo centro dopo 21 giorni viene a sapere che il suo caro amico Chris von Wagenheim, fotografo, quello della rete metallica, quello del primo scatto, quello che l'aveva lanciata, è morto in un incidente stradale, e lei si chiude in bagno per ore, comincia a riempirsi di eroina e comincia a iniziare una china inarrestabile. Poi viene fermata per guida in stato di ebbrezza, poi cerca di riprendersi, chiede aiuto in giro, strappa un contratto con l'agenzia Elite e rilascia una lunga intervista televisiva al programma 2020, e qui dice di essere fuori dal tunnel della droga. Yes, you could say that I did. Sì, posso dire di averlo fatto. È qualcosa che si insinua dentro di te e ti intrappola in un mondo che nessuno conosce, eccetto chi ci sia stato. Ora ne sono fuori. Non sarei qui a parlarne se non fosse così. Ma basta vedere questo video per capire che anche questa volta, dico anche questa volta perché noi di storie del genere ne abbiamo raccontate veramente tante, anche questa volta il soggetto sta mentendo. Viene ingaggiata per alcuni lavori ma non riesce a portarli a termine, è in uno stato confusionale. Una volta in Tunisia viene rispedita a casa perché trovata in possesso di eroina. A questo punto c'è un altro ricovero, un trattamento di disintossicazione duro all'Eagleville Hospital fuori Filadelfia. Siamo nel dicembre dell'84 e qui lei fa amicizia con un paziente, un ragazzo ricoverato come lei, si chiama Robert Favre, e lui lui ricorda la preoccupazione che la tormenta in quel periodo. Sperava che le ragazze non cercassero di emulare quello che vedevano sulle copertine delle riviste di moda. Voleva che capissero che non c'era niente di straordinario. E l'ironia fu che alla fine si creò questa cosa del heroin chic, per cui tutti la emulavano, una cosa terribile. Durante il suo ultimo periodo in ospedale non riusciva nemmeno a parlare e allora scriveva. L'ultima volta che le ho parlato le ho chiesto: come ti senti? E lei ha scritto: spero. Non mi ero mai reso conto prima di quanto sia potente la speranza. Pensate, una ragazza che aveva raggiunto la cima del mondo e improvvisamente non aveva più niente. Eh sì, l'eroina non perdona. Robert Favre parla di heroin chic. È veramente un movimento, perché le aspiranti modelle di quegli anni si definiscono Gia's Girl, cioè le ragazze di Gia, e fanno un uso massiccio dichiarato di droghe. Gia non può perdonarsi anche questo danno fatto, questa volta non a se stessa ma agli altri. Lei nel frattempo è arrivata a prostituirsi per una dose, viene violentata dagli spacciatori, vende i suoi beni, ruba in casa della madre e degli amici, insomma scende veramente nel baratro peggiore della tossicodipendenza. E poi esce dall'ospedale, sembra disintossicata, torna dalla madre ma continua a drogarsi, e poi le viene diagnosticata prima una polmonite bilaterale e poi una malattia che si è scoperta da poco. Siamo nel giugno dell'86, si parla di AIDS. Il 18 novembre successivo, alle 10 del mattino, Gia Carangi muore per le complicanze dell'HIV a 26 anni. È la prima donna famosa che muore di AIDS. Nessuno verrà informato della sua morte, se ne avrà notizia solo molti mesi dopo. La madre, intervenuta in un programma dedicato alla figlia, legge la sua ultima lettera. Dear Mom, the world has been hard on me these past years. Cara mamma, la vita è stata dura per me in questi ultimi anni. So che non è stato facile nemmeno per te. Non ho mai voluto causarti intenzionalmente delle sofferenze e mi distrugge quando lo faccio, perché ti amo più di chiunque. Sei il mio essere umano preferito. Grazie per essere mia madre. Sinceramente tua, con amore, Gia. Gia Carangi ha avuto un'influenza enorme su tutte le grandi modelle che sono venute dopo di lei, ha impersonato uno stile lesbo chic almeno un decennio prima che questo termine venisse sdoganato, coniato e sdoganato. La sua storia è stata raccontata in molte biografie, in un dramma per la televisione del 98 intitolato Gia, una donna oltre ogni limite, è interpretato da una giovanissima Angelina Jolie, che vince un Golden Globe per quel ruolo. Ehi, dove vai? Gia, che è successo? Che hai? Sei senza vestiti. Non cambiare argomento. Ho un fidanzato. Allora? Allora devo andare. Devo andare, tutti devono andare. Ma dove cazzo andate quando ve ne andate, eh? Ci sono storie a volte sconosciute, un po' dimenticate, di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, e poi ci sono storie di persone che proprio perché sono andate in alto a volare si sono fatte più male ancora quando sono precipitate al suolo, perché vivere è difficile per tutti, anche per quelli che arrivano ai vertici in qualcosa come la meravigliosa, la bellissima Gia Carangi, che butta via tutto per inseguire i suoi fantasmi. Ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può dare un colpo d'ala che lo porta a volare come il falco e come il gabbiano. Se volete mandare dei commenti, scrivete al falco e il gabbiano @radio24.it. Ricordate che c'è il podcast per puntate che magari vi siete persi. Poi potete venirmi a cercare dove vi pare, su Facebook, su Twitter, sui miei, su quelli della trasmissione. Insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano,